Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera vi parlo di un grande poeta, Franco Loi, 85 anni portati con gran classe, noto per i suoi libri di poesie scritti in milanese, nonostante gli sia nato a Genova. A Milano Loi era arrivato con la famiglia, il padre era ferroviere, a Milano comincia a lavorare facendo dei lavori presso le stesse ferrovie, poi passa a lavorare in importanti case editrici, fino finalmente a dedicarsi alla poesia, di cui è stato certamente uno dei più alti rappresentanti in questi ultimi anni. E adesso di Loi esce una prova narrativa, anzi la prima prova in assoluto, il primo romanzo che fu scritto tra gli anni 40 e 50 e che avrebbe dovuto essere pubblicato nella prestigiosa collana diretta da Elio Vittorini intitolata I Gettoni. Per varie ragioni che adesso scopriremo, il libro non fu pubblicato e viene pubblicato adesso. È una casa editrice, la H, che lo ripubblica con un nuovo titolo, si intitola infatti rispetto al titolo originale Diario Minimo dei Giorni, 180 pagine, 15 euro. Questo è un romanzo ambientato nei primissimi anni della ripresa del secondo dopoguerra in una famigliola piccolo borghese. Il protagonista la racconta nella sua modesta quotidianità, lui è fedelissimo all'azienda presso la quale lavora, che lo gratificherà di una piccola medaglia d'oro. La madre si consuma nello sforzo di far quadrare i bilanci familiari, il figlio comincia a pensare a godersi la vita. Non c'è praticamente storia se non la tensione del protagonista per il riconoscimento aziendale che lo ha premiato, e le pagine del libro scorrono nella scoperta della vita aziendale di una volta, particolarmente tirannica, di una vita familiare difficile ma fondamentalmente serena, e di una Milano che si riprende dalle distruzioni della guerra. E adesso sentiamo l'autore. Buonasera Franco Loi. Buonasera a lei. Franco Loi, lei ci ripropone, anzi ci propone, questo libro di 60 anni fa. Come mai un'attesa così lunga per questo libro? Ma io non l'ho aspettato. Io non ho mai chiesto di pubblicarlo in vita mia. Da una parte io lo scrissi che avevo tra i 18 e i 21 anni. E poi ci fu un episodio legato a questa cosa, e cioè che io allora collaboravo all'Unità e feci leggere questo dattilo scritto a Marcello Venturi, che allora era direttore di terza pagina dell'Unità. Poi non ho saputo più niente. Poi se io sono nel 54, sono partito per l'Inghilterra e ho lavorato anche tra l'altro in Inghilterra nei caffè, così, senza permesso di soggiorno. E un giorno mi arriva un telegramma che diceva: Vittorini ha letto il tuo romanzo e vorrebbe pubblicarlo nei Gettoni, vieni. Firmato Marcello Venturi. Allora io sono tornato a Milano, ho lasciato tutto e sono venuto a Milano. Sono tornato e ho fatto Vittorini, e Vittorini, quando gli ho detto Loi, gli ha detto chi? E io ho capito subito, no? Ho detto scusi Vittorini, io non sono di quelli che tenevano per rompere l'anima alla gente come lei. La saluto. No, aspetti, perché mi ha telefonato? E lei mi ha telefonato perché Marcello, cioè una persona mi aveva detto che lei avrebbe letto il libro e l'avrebbe pubblicato nei Gettoni, nei Naudi. E allora lui dice, ma chi me l'ha detto? No, ma lasci perdere, Vittorini, è lo stesso. No, no, mi dica chi me l'ha detto. Marcello Venturi. E dice, ma come? Ah, adesso capisco tutto. Perché vede, Marcello è una bravissima persona. È un uomo anche di qualità. Non racconta le bugie. Prima le racconta piccole e poi sempre più grosse. Ma senza risolvere, io la ringrazio per l'attenzione, saluto. No, aspetti, può darsi che da una bugia nasca una verità. Se lei me lo porta in via Canova, io lo sto traslocando. E allora io lo leggerò, tra un mese ci diamo appuntamento ancora, eccetera. Gliel'ho portato e dopo un mese sono andato in via Legovizia. Mi ha portato il libro e lui mi ha detto, lei è uno scrittore. E questo libro, vede, ho avuto ragione. perché adesso non pubblicherò nei gestori, però lei deve rivederlo, deve correggerlo. Alcune cose, sono proprio poche cose che lei deve rivedere. Eppure quando a settembre adesso ho fatto per la Grecia, a settembre ci rivediamo. E io cosa ho fatto? Invece di correggere quel libro lì, che ero stufo anche, perché ce l'avevo dedicato circa 3 anni, insomma, e gli ho detto, senta, sono andato di nuovo e io ho riscritto completamente il romanzo, tutto l'ho rifatto. E allora gli ho portato, ma cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Gli ho detto di fare 2 o 3 correzioni. Lo riprende la vecchia edizione e me la riporti, se non lo faccio lei, lo faccio io, con le 2 o 3 correzioni da fare. Io non ci sono più andato. Come mai non c'è più andato? Perché riscrisse il libro? Perché ero giovane. E ho detto non c'ho più voglia, ma sì, chi se ne frega. E questo suo libro di prosa, rispetto alla, poi alla sua lunga produzione di poesia, che cosa rappresenta? È stato un episodio stravagante, per così dire, o si collega alle sue poesie? Beh, c'è la vita di mio... Io l'ho scritto perché volevo raccontare la vita, una cosa che è avvenuta a mio padre. Mio padre mi aveva dato una medaglia d'oro, lui era direttore dello scalo merci di aggiustamento. E dopo... gli hanno dato la medaglia d'oro e l'hanno trasferito in centrale. Per mio padre è stato un colpo, perché lui amava il suo lavoro e quindi ci è rimasto molto male che l'abbiano portato in centrale a fare l'impiegato d'ufficio. E allora, siccome sono stato anch'io a lavorare allo scalo merci, ho voluto raccontare la storia di mio padre. Infatti il titolo del libro prima era dal diario di una medaglia d'oro e poi invece la casa editrice ha voluto mettere questo titolo nuovo, insomma. E quindi questo libro, tornando al suo titolo, è più un libro minimalista o più neorealista? È più un neorealista, sì, credo. Lei l'ha letto? Io l'ho letto e le chiedo una cosa, il momento forse più drammatico del libro è verso la conclusione, quando suo padre, signor Dini, immagina il colloquio col commendatore per avere un aumento di stipendio. Sì. E alla fine il protagonista si accorge che più che chiedere un aumento di stipendio, più che volere dei soldi, vuole più considerazione, più rispetto, più educazione. Ecco, che cosa rappresenta quindi questo dialogo? La vita d'ufficio, sai, era una vita, l'ho fatta anch'io. C'era uno che si chiamava Cavaliere Merlo, io ho cambiato il nome naturalmente, mentre il direttore dell'ufficio si chiamava Mainardi e era il padre di un mio compagno di scuola, tra l'altro. Però lui ci trattava come se fossimo tutti al suo servizio, come se fossero dei camerieri da usare. Non parliamo degli operai. E quando c'è un episodio, no? Quando vengono a prendere la faga, perché c'è la moglie all'ospedale, uno di questi, lui non gliela dà, perché la faga si fa al sabato. E non gliela dà e lo caccia via in quel modo. Ecco, questa era la mia idea, di dare un senso, come dire, negativo al modo con cui mi veniva considerata la gente che lavorava, la gente che faceva il suo dovere nella società, insomma. Bene, grazie a Franco Loi, autore di Diario Minimo dei Giorni. Grazie, a presto. Grazie a lei, arrivederci. Rimaniamo in ambito milanese con un grande scrittore del Novecento che merita di essere riscoperto magari in queste settimane estive, Luigi Santucci, di cui vengono pubblicate le opere da Aragno, sono 2 volumi per complessive 844 pagine e 50 euro. Santucci, dice, è uno scrittore milanese vissuto tra il 1918 e il 1999, considerato uno dei maggiori scrittori del secondo dopoguerra in Italia, che ebbe a un certo punto grande successo e notorietà per un paio di titoli, soprattutto Il Velocifero del 63, che che ritroviamo appunto in questa raccolta. Questo è un romanzo storico che ci presenta una Milano d'antan in cui c'è ancora la nebbia e i milanesi parlano ancora in milanese. E poi troviamo altri titoli fortunati, per esempio In Australia con mio nonno del 1947, un libro ironico e sarcastico, Lo zio prete, che è una raccolta di novelle del 1951, e L'imperfetta Letizia, che è una raccolta di brevi saggi sul tema della natività del 54, poi una raccolta di meditazione, Prossimo tuo del 1966. E sentiamo proprio da questa raccolta, Prossimo tuo, scritto quasi 50 anni fa, come avete sentito, delle pagine che risultano ancora molto attuali sul rischio di intolleranza che domina la nostra società, che prendono l'avvio anche allora dall'intolleranza verso chi ha il colore della pelle diversa dalla nostra. Esiste un altro negro che non abita sotto i palmizi di banano o nei tukul della Nigeria, che ha lo stesso colore della nostra pelle, non sa di selvatico, e lo possiamo incontrare sulle scale di casa, in tram, in ufficio o nella pensione dove trascorriamo le ferie. La sua pelle è bianca come la nostra e anche di più. Non cinge il perizoma, talvolta ha una cravatta meglio annodata di quella che noi portiamo, eppure sentiamo nei suoi confronti una ripugnanza razziale non inferiore a quella che ci suscita, se siamo razzisti, un pigmeo dell'Urundi e un gnam gnam dell'Equatore. Questo negro bianco, nato magari nel nostro quartiere, forse addirittura consanguineo per una malcapitata cuginanza, è il nostro, come dire, il nostro rovescio psicologico, il nostro antipodo morale. Colui che è totalmente, ostentatamente sfornito di tutte quelle attitudini, quelle prerogative, quei gusti o manie che fanno di noi ciò che siamo e per cui ci troviamo tanto simpatici e stiamo tanto volentieri in compagnia di noi stessi. Io sono putacaso per il genere melodico, detesto le canzoni moderne. Lui adora gli urlatori. Io aborrisco le spiagge e passo le mie vacanze sulle più alte cime possibili? Lui non capisce come si possa trascorrere una domenica in montagna senza morir di noia. Io non distingo un asso di bastoni da una regina di cuori? Lui spreca le notti al tavolo del poker. Io non ho mai assistito a una partita di calcio? Lui va allo stadio a mezzogiorno, estate e inverno, col cestino della colazione, e si porta la transistor per ascoltare contemporaneamente la radiocronaca di un altro incontro di campionato. Io sono socialista? Lui missino. Io tutto famiglia e figlioli? Lui spavaldamente scapolo. Io bigotto? Lui materialista e ateo. Le nostre pelli, ahimè, sono uguali, ma io sarei disposto a dipingere la mia di verde per distinguermi da lui. E dietro il suo profilo ariano vedo il più orrido ceffo di boscimano. Vicino a lui sento la più sgradevole puzza di selvatico. La sua voce, che parla italiano come la mia, ha per me il più insopportabile e gutturale accento delle lingue agglutinate. È il negro, il mio negro. Nulla ci unisce, tutto, al contrario, ci divide. E qui l'opposizione delle razze si rivela non già all'esterno, accidentale e infine ben superabile colore del pigmento, ma in ogni nostro modo di pensare, di godere e soffrire, di muoverci, quasi di respirare. Dopo una breve interruzione ci sentiamo fra pochi secondi. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, abbiamo parlato di autori milanesi, allora cominciamo da Milano un viaggio verso il sud e ci fermiamo subito a Firenze, che quest'anno celebra i 150 anni da quando fu proclamata capitale d'Italia. Come ricorderete, Firenze sarebbe stata poi capitale fino al 1870, e quella Firenze capitale rievoca Pier Francesco Listri nel libro Segreti e vita quotidiana di Firenze capitale, pubblicato dalle Lettere, 88 pagine, 11 euro. Quando il re Vittorio Emanuele II arriva a Firenze il 3 febbraio del 1865 lo accompagnano 20.000 piemontesi tra burocrati e militari che non si ambientarono facilmente nella città e rimasero anche sorpresi da tante abitudini che allora apparvero stranissime dei fiorentini, per esempio la festa del grillo in cui i fiorentini invadono le cascine con una gabbietta con dentro appunto il grillo. E in questo libro troviamo la storia, le storie, le immagini di questa Firenze e di questo quinquennio con i personaggi più interessanti che dominarono la scena, con una considerazione di fondo di Listri che Firenze si dimostrò essere una città vivace, tutt'altro conclude che una firenzina. E un ritratto contemporaneo di Firenze troviamo nel libro di Marco Innocenti, Firenze amara e dolce, con le foto di Lorenzo Mannonna, è pubblicato da Vagliano, 116 pagine, 13 euro. Se passerete da Firenze in queste settimane, questo è un libro che vi può aiutare perché troverete una serie di tappe che ci offrono spunti insoliti per vedere e capire la città, per esempio la statua di Pistoletto che sorge a Porta Romana, o per cogliere momenti e personaggi singolari, perciò capaci di farci scoprire la città sotto occhi insoliti. È una Firenze non necessariamente famosa e monumentale, ma capace sempre di emozionare, come ricordano queste righe. Se dovessi indicare il cuore di Firenze, è qui che punterei il dito. Santo Spirito. E non lo dico soltanto per le sue chiese, la Basilica di Santo Spirito progettata dal Brunelleschi, con il crocifisso scolpito da Michelangelo, donato dall'artista stesso ai frati che lo avevano ospitato nel 1492, e la chiesa di Santa Maria del Carmine, con la cappella Brancacci decorata dagli affreschi di Masaccio, Masolino e Filippino Lippi, capolavori dell'arte rinascimentale. No, lo affermo soprattutto per l'aria che si respira nelle sue strade e stradine, per la sua gente di quartiere, per i suoi negozietti di artigiani che ancora resistono, per i baretti disseminati qua e là, per i colori che ravvivano le sue case e casupole e anche, perché no, per i ragazzi che giocano a calcio nel piccolo campo recintato di Piazza Tasso. Mi ricordano quando ero ragazzo come loro e a pallone ci giocavo anch'io, in un'altra piazza, in un'altra città. Ovviamente non è tutto. C'è un motivo strettamente privato per cui considero Santo Spirito un posto speciale. Qui è stata l'ultima volta in cui ho confessato a me stesso mi sono innamorato. La porti un bacione a Firenze. Andiamo a sud, in Sicilia, con un classico della letteratura siciliana, I Beati Paoli di Luigi Natoli, uno dei maggiori scrittori popolari a cavallo fra 8 e 900, pubblicato da Flaccovio, 704 pagine, 26 euro. Natoli fu un protagonista della vita culturale del suo tempo, era cresciuto in ambiente antiborbonico, era stato già in prigione a 3 anni perché la madre, quando erano arrivati i garibaldini, si era presentata in piazza con tutta la famiglia, compresi i bambini, con la camicia rossa ed erano stati tutti rinchiusi in galera. Inoltre era stato autore Natoli di libri messi all'indice perché mettevano il clero in cattiva luce, fu poi antifascista. E questo è certamente il suo libro più famoso, ambientato nella Palermo del Settecento, una sorta di passeggiata nella città, di cui conosceremo qua i protagonisti, i costumi, le abitudini e i vizi, grazie a una storia che è un feuilleton vero e proprio di grande qualità, peraltro, di cui è protagonista una società segreta, appunto i Beati Paoli, che sarebbe nata per difendere la povera gente dai soprusi dei nobili, del cui sfarzo troviamo adesso qui una testimonianza. La strada di Mezzo Monreale, che per oltre 3 miglia corre diritta dalle falde del Colle Caputo alla Porta Nuova di Palermo, era nel secolo XVIII, per un buon tratto, dalla porta fino al convento dei Cappuccini, fiancheggiata da grandi e ombrosi alberi, fattivi piantare da Marcantonio Colonna durante il suo viceregno. Alcune fontane, delle quali ancora ne avanza qualcuna, ornavano il largo viale, e dei sedili offrivano comodi riposi all'ombra. Di qua e di là, oltre i muri che fiancheggiavano la strada, oltre le case rare, si stendevano orti, prati e agrumeti. Sorgevano ville magnifiche. Qualche chiesa lanciava sopra il verde il suo campanile svettante. Il vetusto e grigio palazzo della Cuba torreggiava, triste e solitario superstite di una grandezza scomparsa, ridotto a caserma di cavalleria. Questo stradale era in quei tempi una delle passeggiate favorite dai cittadini di Palermo. Nel pomeriggio la strada era percorsa da portantine e carrozze rilucenti di dorature. sormontate da grandi pennacchi svolazzanti, e da una parte e dall'altra da modesti borghesi e popolani che, non potendo concedersi il lusso di essere trasportati dai piedi altrui, si compiacevano di riconoscere e ammirare gli equipaggi che fragorosamente andavano e venivano fra Porta Nuova e la Fontana dei Cappuccini. I giovani signori preferivano andare a cavallo, caracollando fra le carrozze e le portantine per fare mostra della loro abilità e sfoggiare la ricchezza del loro abbigliamento. Restiamo a Palermo con una protagonista dell'editoria della cultura italiana, Elvira Sellerio, l'editrice dell'omonima casa, morta nel 2010. La collana forse più famosa alla quale Elvira Sellerio diede vita fu La memoria, dei libri di piccolo formato con la copertina blu e un'immagine molto evocativa, che fu a lungo curata fin dall'inizio, quando si avviò nel 1979, da Leonardo Sciascia. Adesso questa collana è arrivata al numero 1000 e ospita in questo numero necessariamente straordinario un ricordo della Sellerio affidata a 23 dei suoi autori più celebri. Quando iniziò l'attività della Sellerio nessuno conosceva, per esempio, Andrea Camilleri, che è diventato l'autore probabilmente più venduto e fortunato della casa editrice. Sentiamo come Camilleri ha ricordato Elvira Sellerio, riprendendo le righe pubblicate in questo volume, in un incontro pubblico svoltosi a Torino nella scorsa edizione del Salone del Libro, quando è stata diffusa una registrazione del suo intervento. Fin da quel primo incontro, che era un incontro da parte mia un po' impacciato di prima conoscenza o altro, fin dal primo incontro scattò una simpatia reciproca. Questo, diciamo, fu evidentissimo. Cioè non ce lo nascondemmo al momento di salutarci, nell'augurarci il modo di vederci di nuovo presto, eccetera. Proprio sono cose un po' difficili dirsi a parole, non so se mi spiego, perché sono cose fluttuanti, cose che cogli a volo, che capti. Però ci fu questa simpatia, ci fu. Ecco perché io ho sempre detto che, anche se non avessi fatto lo scrittore, ma che so, l'idraulico, sarei stato un amico di Elvira, perché fu una cosa a prescindere proprio dal rapporto tra scrittore ed editore. È un problema di sensibilità, di capirsi senza dire le cose, cioè, ed è un episodio al quale tengo molto nella mia memoria di Elvira, perché c'è un vuoto di 6 anni, 7 anni, non un anno, dopo aver dato il primo libro a Elvira, c'è il silenzio mio, non compare nulla. Non è che io ho dato altri libri e lei non me l'ha pubblicati. Io non ho più scritto. E agli studiosi di cose siciliane segnalo un libro curato da Piero Di Giovanni, La Sicilia nel contesto della civiltà europea e mediterranea, pubblicata da Franco Angeli, 274 pagine, 33 euro, che raccoglie 3 saggi sulle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia, che in questa regione, come forse sapete, sono delegate, anche per quanto riguarda la tutela dei beni artistici, alla stessa regione, non allo Stato. E la regione è stata particolarmente attiva, e di questo anche il libro parla, nel conseguimento, che molte località hanno ottenuto, del marchio UNESCO. Come ricorderete, proprio pochi giorni fa Palermo, per esempio, ha ottenuto il riconoscimento come 51esimo sito italiano UNESCO come città araba normanna, assieme alle cattedrali di Cefalù e di Monreale. Un romanzo siciliano, anzi lampeduseo, è quello di Franca Cavagnoli, Luminusa, è pubblicato da Frassinelli, 158 pagine, 18,50 euro. Un Mario Lombardo si reca a Lampedusa per osservare da vicino la situazione creatasi con gli sbarchi e decide di rimanere lì per creare addirittura un museo ricavato dagli oggetti abbandonati in queste situazioni spesso drammatiche. Li raccoglie questi oggetti, li espone e li presenta con didascalie in versi e in endecasillabi. È una scelta difficile anche nei rapporti familiari, nonostante che i suoi rapporti con la Lombardia non siano idilliaci, e qui troviamo appunto la storia di questa esperienza. A un certo punto, per esempio, un'amica lo rimprovera dicendogli: per te Mario avvicinarti all'Africa è importante, io l'ho sempre saputo come l'ha sempre saputo tua madre, per me non è così, Lampedusa per te è un pretesto in attesa di capire cosa vuoi fare, forse è questo che ti devi chiedere, a Lampedusa vuoi andarci per loro o per te? Quindi è una specie di grande esame di coscienza che il protagonista fa in questa esperienza nell'isola, e infatti un amico lo inviterà a ricordare che le situazioni possono far cambiare le persone cambiano Mario, soprattutto dopo una crisi profonda non si è più gli stessi, cambi tu ma cambia anche la persona con cui stai, ma anche l'isola cambia, l'isola affronta le emergenze con preoccupazione e spesso anche con generosità, e quindi questo libro ci risulta particolarmente attuale, in certi punti polemico, ma ha il merito di farci capire da un punto di vista insolito e inedita la situazione di Lampedusa e quella dei migranti per i quali quell'isola rappresenta la terra promessa. E a questo punto il confettino di un grande autore, Pinin Carpi, vi segnalo C'è gatto e gatto, poesie e storie per i bambini e i grandi che vogliono bene ai gatti, con l'illustrazione dell'autore, pubblicato da PM, 204 pagine, 14 euro. Un grande artista, dunque, che raccoglie le sue storie con i gatti protagonisti, punteggiate di poesie e di disegni. E ai genitori amanti dei gatti segnalo il libro di Marina Mander, Il potere del miau, pubblicato da Mondadori, 142 pagine, 14 euro. Questo è un manuale di convivenza attraverso la conoscenza dei gatti. E questi animali sono così presentati. I gatti non temono l'amore, hanno paura di chi sbraita e abbaia, dei botti di Capodanno, dei rumori improvvisi, delle note acute, ma anche dell'aspirapolvere del frullatore qualche volta. Ma per il resto sono creature molto coraggiose, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Non si vergognano di amare interamente perché non temono di perdere l'identità. E un gatto è il protagonista del romanzo del celebre scrittore giapponese Hiraide Takashi, di cui viene pubblicato da Einaudi Il gatto venuto dal cielo, 140 pagine, 18 euro, tradotto da Laura Tastaverde. Kibi è il protagonista felino di questo libro, che capita nella casa di una giovane coppia, ma soprattutto entra nella loro vita trasformandola e migliorandola. E un gatto troveremo protagonista di un racconto dei maestri della fantascienza, Ray Bradbury, l'autore di Fahrenheit 451, di cui Mondadori pubblica Il pigiama del gatto, 238 pagine, 12 euro, tradotto da Giuseppe Lippi, una raccolta finora inedita di vari racconti brevi, tra cui appunto quello dedicato a un gatto che contribuirà non alla rinascita ma alla nascita, in questo caso, di una coppia. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, e Peter Bescapè, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il sito www.radio24.it, dove potrete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.